Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Clamorosa rivelazione arriva dagli infermieri del 118 che la notte del 14 febbraio 2004 esaminarono per primi il corpo senza vita del campione. Nella loro testimonianza, resa al legale della famiglia, l'avvocato Antonio De Rensis, i due infermieri affermano che di fianco al corpo del pirata non vi era alcuna pallina di pane e cocaina. Quella pallina è stata fotografata sulla scena del delitto dagli investigatori ed è agli atti del processo. C'è solo un piccolo problema. Se due testimoni hanno riferito con sicurezza che quella palla non c'era, come può essere comparsa all'improvviso di fianco a Pantani? La circostanza ancora più strana è che quei due uomini in servizio al 118, ribadiamo, i primi ad intervenire sul corpo di Pantani, non sono mai stati interrogati dagli inquirenti dell'epoca. Questo è il motivo per cui la loro testimonianza arriva soltanto ora. Non sapevano nulla di quella pallina, sono venuti a conoscenza di quel particolare dai giornali e dalle televisioni e con grande senso civico hanno voluto spontaneamente rendere la loro testimonianza all'avvocato della famiglia. L'altro particolare inquietante è che quella pallina teoricamente riversata nel sangue da Pantani è completamente bianca, circostanza inverosimile, come si può chiaramente vedere. Anche il perito della famiglia nella sua relazione aveva già tempo fa evidenziato questo aspetto. La pallina non può essere uscita dalla bocca di Pantani, aveva scritto, un fatto che viene confermato anche da un altro studio approfondito sulle foto e sul filmato girato dalla polizia quella notte. Insomma, più si scava e più lo scenario di quella morte cambia. Ma se tutte queste prove sono vere, chi ha messo quella pallina di fianco al corpo di Pantani? Marco, quando è tornato a casa, ha dipinto nella sua stanza completamente le pareti con una frase: a Campiglio mi hanno fregato. Un uomo può mentire agli altri, ma non può mentire a se stesso. Se un uomo arriva a scrivere quelle cose sulla sua stanza, è perché quella è la sua verità, ma la verità che racconta a se stesso. Beh, a me vengono i brividi, non ho in programma di parlarne a lungo, se volete però lo facciamo, non c'è nessun problema come sempre, 800240024, ma questa inchiesta di Mediaset Sport di Davide De Zan, secondo me meritava questa copertina e questo primo piano. Detto questo, io leggo, sento, prendo atto, ma sono a disagio, vi confesso, tutte le volte che devo, per quanto mi riguarda, riaprire il file Pantani. Giovanni Capuano oggi qui con me, ciao Giovanni. Ciao Carlo. Parliamo di calcio, di tutto quanto, di tennis, di Federer e Wawrinka che non si amano, anche perché c'è la fidanzata di Federer di mezzo, parliamo di un sacco di cose. Ma naturalmente, come sempre, e Pardo arriva a 3:15 perché in questi giorni è un pigrone, ma naturalmente tema libero, anche perché stasera c'è la nazionale a Genova contro l'Albania. C'è una dichiarazione di Preziosi che poi facciamo sentire, secondo cui potrebbero esserci dei problemi perché i genovesi continuano a non gradire questa amichevole. Sì, ha detto che non c'è il clima giusto per giocare, del resto va capito. Questa è un'amichevole nata male, anche se in realtà credo che questa volta la federazione si fosse mossa davvero con l'intenzione di fare qualcosa di buono, e comunque questa sera il segnale che verrà dato non sarà soltanto di facciata, ma sarà un segnale concreto. Poi certo, dopo quello che è accaduto domenica sera a San Siro, c'è un po' di preoccupazione. Ci sono 10-11 mila albanesi che arriveranno da tutta Europa su Marassi. Noi ci auguriamo tutti che la questione sia gestita con un po' più di attenzione di quanto fatto domenica sera a San Siro. Su questo mi riservo i miei dubbi, le mie perplessità. E quindi speriamo che vada tutto bene, speriamo che i soldi raccolti alla fine servano davvero a qualcosa di concreto. Poi qualche perplessità l'avevamo espressa anche noi, parlando anche con il presidente Preziosi, però a questo punto io credo è anche inutile fare una polemica preventiva su questa amichevole. Giochiamola, cerchiamo di far passare il messaggio giusto, cioè quello di una vicinanza nei confronti degli alluvionati di Genova, e non solo, perché ha ragione Buffon, certo. Purtroppo ce ne sono tanti altri, certo. E per una volta insomma lasciamo da parte le polemiche. No, ma sai, la frase più ricorrente di genovesi, e non solo, è: ma come, si vuole aiutare la città con i soldi di chi? Con i soldi di quelli che hanno subito i danni. Sì, ma in realtà arriveranno anche tanti altri soldi, arriveranno quelli dei diritti televisivi, soldi, certo. I giocatori si tasseranno, quindi non è vero che viene chiesto soltanto ai genovesi vero. Di pagare per andare a vedere la partita. È anche un modo per accendere i riflettori sulla città in una maniera diversa rispetto a quello che è successo in queste settimane. Poi ripeto, si poteva fare una scelta diversa, però io non farei dietrologie, cioè mi sembra che questa volta il tentativo della federazione fosse un tentativo genuino. Benissimo, di tutto questo e di altro ancora parliamo oggi. Franco Piantanida, il nostro autore, Roberto Scaltrini in regia. Oggi si chiama Menzo. Perché, dobbiamo dirlo, la signora ci ha fatto molto sorridere. Noi facciamo i complimenti, gli auguri e tutto. Menezza ha avuto un il bimbo. Secondo genito, l'ha chiamato Menzo. Menzo, quindi da oggi è Menzo Piantanida. Un nome un po' più bizzarro forse non lo poteva nemmeno immaginare. Esattamente di che cosa stiamo parlando, perché la cosa da un certo punto di vista è netta. Ci sono 200 farabutti o 150 o 130, 130 energumeni e farabutti proprio profondamente, poco in poi, in questa occasione sono croati, in un'altra potevano essere del Lussemburgo, i quali vanno al campo non per ragioni che attengono allo sport, no, assolutamente per fare casino. Addirittura fanno casino nel momento in cui la loro nazionale stava cucinando a ragù la nostra. Allora, indignazione ovviamente, indignazione che 130 farabutti trasformino un campo, come è stato detto, come se fossimo stati a Gaza. Ma a questo punto, io non lo so, truppe speciali che intervengano 130 in guardina, o no? Se no, di che cosa stiamo parlando? Le truppe speciali allo stadio, come suggerisce Mughini, mi sembrano troppa roba. Che basterebbe cominciare magari ad applicare le regole. Oggi sulla Gazzetta c'era il conto degli ultra croati. Quattro precedenti di questo genere già sanzionati, 200 e passa 1000 euro di multe in 3 anni. Altre 2 sentenze che devono arrivare, che porteranno ad altre multe, più quella di San Siro, che potrebbe portare le partite a porte chiuse. Bisogna anche avere il coraggio di dire che magari questa gente qui semplicemente gli si fa fare un giro a casa. Cioè, a me spiace per i giocatori croati, magari non c'entrano nulla. Oppure bisognerebbe anche se a fine partita erano tutti lì sotto ad applaudire, poi sono venuti in zona a dire che si vergognavano, eccetera. Però a fine partita erano lì sotto la curva ad applaudire. I giocatori serbi a Genova in ginocchio quasi davanti a Ivan Bogdanovic, che, lo ripetiamo, comunque è tornato in ufficio, come documentano le immagini, non troppo lontane di Belgrado, Serbia-Albania di 3 settimane fa o giù di lì, no? Comunque quindi, non serve l'esercito, Carlo. Non serve l'esercito. Che se una federazione si porta dietro questa gente qui, questa federazione si può anche chiedere gentilmente di ripassare fra qualche anno. E comunque questa gente qui, guarda caso, arriva sempre dalle nostre parti, perché sanno che comunque certe cose qui probabilmente se le possono, anzi non probabilmente, levo l'avverbio, se le possono permettere e basta. Ho citato prima la frase di Preziosi che sentiamo su Stasera. Le responsabilità della partita se le devono assumere l'autorità di pubblica sicurezza locale, che è il prefetto, e il signor sindaco, perché noi avevamo preparato la partita per Parma, ci hanno chiesto, abbiamo fatto un bel gesto, adesso però la responsabilità mica la dobbiamo prendere noi. Io penso che sia un clima non tanto cattivo, la gente si è incazzata che muore, io non farei mica sta cosa. Ma tu hai visto cosa ha scritto il sindaco? Ha chiesto di fare la partita per favore. Alessandro Vocarelli, buongiorno, grazie. Ciao, buongiorno ciao. A tutti quanti, ciao ciao. Non era facile capire in questo audio un po' rubato nel colloquio tra Preziosi e Tavecchio. Comunque, Preziosi dice: questa sera a Genova ci sarà gente un po' incazzata, ci saranno anche 11.000 albanesi. Due giorni fa a San Siro, oggi c'è il tennis delle polemiche sui casini di domenica. Insomma, un clima non bellissimo quello che accompagna questa partita. Anche se dicevamo prima con Giovanni Capuano, l'intento della Federcalcio era di fare un buon gesto, era genuino. Ah, sicuramente le intenzioni erano sicuramente buone, considerando il motivo per cui si è deciso di giocare a Genova. Non so onestamente se il momento sia adatto, perché mi sembra che comunque problemi ce n'abbiano anche avuto negli ultimi giorni, per cui forse la tempistica non è proprio l'ideale. Mi sembra che in questo momento ci siano altri pensieri nella testa dei genovesi. Sì, ci sono altri pensieri e c'è un clima, e c'è un clima difficile, e ci sono anche gli albanesi, tra l'altro 11.000. Sì, le previsioni meteo di questa sera, ovviamente un mese fa, non erano disponibili quando è stato scelto di spostare da Parma, però è tutto un paradosso, l'abbiamo sentito, c'è un imbarazzo vero, l'abbiamo colto, Tavecchio, Preziosi, ma io questa partita non la giocherei, ed è un po' un paradosso tutto nostro. Ripeto, questo in fondo è un'iniziativa solidale, la Federcalcio e la Nazionale non c'entrano nulla con quello che è successo alla Liguria e sta succedendo a Genova, quindi eventualmente farebbero soltanto da cassa da risonanza, però io credo, Alessandro, sarebbe un'occasione persa se succedesse questa sera. Sì, purtroppo il problema è che appunto il calcio è un grandissimo amplificatore, per cui è sempre l'occasione, insomma, per nel bene quando si fanno iniziative e di solidarietà, diciamo un po' meno bene quando si tratta magari di amplificare una protesta. Speriamo che vada bene, appunto perché il senso di questa partita era esclusivamente quella di far sentire una vicinanza alle popolazioni ligure. Se invece diventa un problema, effettivamente c'è di che pensare, dai. Certo, sul campo come la vedi questa partita? Che utilità può avere? Nessuna, zero. Cioè, io credo che sia un'occasione persa nel momento in cui sì, si cercano degli slot per, come dicevamo ieri con Pardo, usato questa parola per dare a Conte tempo e campo. Sì, ma io non voglio essere dissacrante a tutti i costi, anche se a volte mi riesce spesso, però vuol dire, se si fa una partita, secondo me anche per dare un segnale, si fa una partita che comunque abbia un significato anche di spettacolo, anche di immagine del calcio, di immagine bella. Onestamente la nazionale che va in campo stasera è una nazionale, perdonatemi il termine, abbastanza rabberciata, nel senso giocatori chiamati all'ultimo momento anche esclusivamente per queste partite che magari non si saranno mai più richiamati. Io invece credo che al di là del segnale, appunto, di solidarietà, anche da un punto di vista tecnico bisognava offrire, magari in un momento diverso, però uno spettacolo migliore. Questo mi sembra veramente una partita di cui si poteva fare volentieri a meno, da un punto di vista proprio dell'immagine che si offre. Non è la nazionale italiana quella di stasera, ci sono dei giocatori che, ripeto, toccate e fuga, li vediamo tra, per loro una doppia convocazione, nel senso che molto probabilmente sarà la prima e l'ultima. Sì, poi l'unico motivo di interesse ce l'ha tolto la pubalgia che si è portata via Balotelli, più o meno diplomatica, perché ci sono diverse versioni. Forse sarebbe stato interessante per quello, perché io sono convinto che questa sarebbe stata la serata in cui Balotelli sarebbe stato rimesso in campo, anche con un significato simbolico. Forse l'unico elemento che può interessare questa sera è dare un'occhiata a se scatta quella scintilla tra Cerci e Conte, che Cerci è l'altro grande rientrante in questa nazionale. Sì, ma ti ripeto, secondo me non è neanche, tra virgolette, giusto a dare a alcuni giocatori un'occasione in partite come questo tipo. E anche a Balotelli, sono d'accordo con te, sarebbe stato un motivo di interesse, però noi contestiamo un po' il fatto che Balotelli sia soprattutto diventato un fenomeno mediatico, e poi però in qualche modo anche per noi è un fenomeno mediatico. Io invece credo che giocatori come Balotelli, come Cerci, abbiano da una parte il dovere, dall'altra parte il diritto di essere considerati in partite che abbiano un valore tecnico, perché sì, se no, anche il professionista, secondo me, potrebbe dire: vabbè, ma qual è il motivo per cui mi fa giocare questa partita e non mi chiami per occasioni, diciamo, un po' meno sperimentali, dai. Sì, un'ultima cosa, Alessandro, proprio sugli attaccanti, perché secondo me lì sono i veri problemi. Conte ha costruito una squadra all'insegna del vecchio motto: prima non prendere, grosso modo ci riesce. Davanti invece, secondo me, abbiamo davvero poco talento e poca qualità. Stasera rivediamo Destro, pure se in questa occasione pressoché inutile, sono d'accordo con te. Io sono dell'idea che Destro, Osvaldo e Balotelli siano i tre più forti che abbiamo, almeno potenzialmente. Sì, tranne ormai lo dimentichiamo giustamente perché fuori da troppo Giuseppe Rossi, certo. Rossi che secondo me è potenzialmente il miglior attaccante italiano. Detto questo, sono d'accordo con te, gli altri sono questi. E per dire, io Balotelli ho contestato per tutto un anno, a stagione 2013-2014, l'idea che noi dovessimo affidarci sempre solo a Balotelli per questo mondiale, perché mi sembrava un rischio pazzesco affidarsi a un giocatore di grande discontinuità. Nello stesso momento dico che oggi secondo me bisogna fare però tutto il possibile per rimetterlo in gruppo e per rimetterlo in concorrenza con gli altri, perché insieme a Destro, a Osvaldo, insomma, è comunque uno degli attaccanti migliori, per cui insomma, io mi auguro che non si passi dall'eccesso di considerarlo la causa di tutti i mali, come è avvenuto dopo il mondiale brasiliano, oppure addirittura, come è stato presentato in questa occasione, il quinto o il sesto attaccante. Io credo che ci debba essere una via di mezzo. Sicuro. È un ottimo giocatore, non è quel fuoriclasse che forse a noi faceva piacere raccontare, però è un ottimo giocatore e vediamo quello che può servire. Se lo mettiamo al centro delle gerarchie, non del progetto, ma al centro delle gerarchie, per cui non il primo ma neanche l'ultimo, secondo me forse la cosa migliore. Sì, una sana via di mezzo per un giocatore che ha talento in un contesto in cui di talento ce n'è pochissimo. La concorrenza, se pensi che in epoche passate la nazionale l'hanno vista da lontano giocatori come Chiesa, come Pruzzo, come Montella, come insomma, gente che oggi sarebbe stratitolare, ti fa pensare qual era la ricchezza degli attaccanti di una volta e qual è onestamente la povertà degli attaccanti. Lo stesso attuale allenatore dell'Inter non è che l'abbia vista da vicinissimo, ha fatto una montagna di presenze. C'erano anche problemi di carattere caratteriale. Qualche problemino. Grazie direttore. A voi, buona giornata. Grazie Alessandro Vocarelli. Poi te ne dico una su Destro. Aspetto qui. Allora, ecco che torniamo. Giovanni Capuano mi aveva promesso una cosa su Destro. Ne aggiungiamo un'altra su Balotelli? Sì, ne aggiungiamo una pesantina su Balotelli. No, quella su Destro è questa. Ieri Sabatini ha ribadito che Destro è incedibile, fa parte del progetto della Roma, resterà. Però risulta che Destro non sia contentissimo di come vanno le cose, non tanto per il minutaggio, quanto perché Garcia fa in partenza scelte diverse, Gervinho è intoccabile, Iturbe, la Roma sta cercando di valorizzarlo, Totti, se sta bene Totti, e quindi gioca. E Destro sarebbe attratto da sirene inglesi, tra l'altro, al centro del villaggio romanista. Tra l'altro ha un procuratore molto british che ha rapporti stretti con l'Arsenal, che ha bisogno di una punta e che a gennaio potrebbe avere un tesoretto, diciamo una ventina di milioni di euro da spendere, e magari Sabatini ci pensa. Uno più uno più due fa tre. Sì, fa tre. In realtà già quest'estate si era parlato di Londra, del Chelsea, poi alla fine Destro è rimasto. Però attenzione, L'Arsenal ha bisogno di una prima punta. È un club che notoriamente privilegia giocatori giovani, ha molti quattrini da spendere. Una ventina di milioni potrebbe anche averli. Sì, la Roma informalmente lo quota un po' di più. C'è anche da dire che Destro avrebbe voglia di giocarsi fino in fondo la carta nazionale. E ha ragione, perché si rende conto di essere circondato da giocatori che sono per lui ampiamente superabili nelle gerarchie. Certo, avrebbe bisogno di giocare con una certa continuità. Invece ha fatto 5 partite da titolare nelle prime 14-15 di stagione. Tra l'altro degli attaccanti che sono circolati in questo giro di nazionale, è quello che ha segnato di più in stagione. No, lui è quello che segna di più, e da quando è rientrato dopo l'infortunio al ginocchio l'anno scorso segna praticamente con la media di un gol ogni 95-96 minuti. Il problema è proprio delle scelte, cioè lui fa tante presenze ma le fa spesso partendo dalla panchina, e così non trova continuità, o almeno questo è quello che pensa. Invece, cos'è questa storia? Conte avrebbe detto su Balotelli cosa succede? Abbiamo l'audio? Sentiamo cosa ha detto Conte a Rai Sport Web, giusto? Rai Oggi. Sport è l'intervista prima della partita, la classica intervista che la Rai fa con il commissario tecnico. Benissimo, e allora su Balotelli avrebbe detto una cosina interessante. Chiude così l'argomento Balotelli. A cambiarlo ci hanno provato Mancini, Mourinho, Allegri. Il passato insegna, stiamo parlando di grandissimi tecnici. Ripeto, non mi considero talmente presuntuoso, anche perché io non c'ho tanto tempo a disposizione. Quindi non ho tempo di cambiare Balotelli. Il retroscena che raccontano da un paio di giorni soprattutto i giornali romani, Il Tempo e Il Messaggero, è che giovedì, nell'ultimo amichevole della nazionale a porte chiuse, sì, l'ultimo allenamento, quello con l'Under 18 a Coverciano prima della partita con la Croazia, diciamo Balotelli non è apparso coinvoltissimo, è entrato quinto su cinque attaccanti e a un certo punto, racconta oggi Ugo Trani sul Messaggero, ha smesso di correre. Conte ha praticamente invaso il campo, gli ha chiesto di metterci più intensità, di smetterla di camminare, di correre. L'allenamento è finito così e poi dopo è saltata fuori la storia della pubalgia e Balotelli domenica mattina è tornato a casa. Gli ha strillato di correre e lui ciondolava. Lui ciondolava, probabilmente ha anche un problema, un ritardo di condizione, e poi bisogna anche verificare se questo retroscena corrisponde pienamente a verità. La verità secondo me è che non è scattata la scintilla, è inutile che ci giriamo intorno. Come può scattare in un giorno? Cioè, o ha fatto finta Conte, ha fatto finta, l'ha convocato perché prima o poi doveva farlo, così si è tolto dalle palle questo problema, oppure non puoi in due giorni di allenamento per uno screzzo di questo tipo dire vabbè tanto c'è niente da fare, non ho tempo di cambiarlo. Secondo me non capisci di calcio. Chi? Chi? Secondo me aggiunge ha Conte detto, alla lunga lista. Aggiunge Conte alla lunga lista. Conte ha detto anche un'altra cosa sui giovani. Penso che bisogna tornare a essere molto umili, ad apprezzare il lavoro, la fatica, a capire che senza lavoro, senza fatica non si diventa campioni. Allora, se ci sono queste premesse, io penso che si possa lavorare, altrimenti è solo l'inizio di una discesa questa. Non so niente. Pietro Milano, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Di che parliamo? Sono un po' emozionato, ma anch'io. Sono veramente. Dica. Per due motivi sono orgoglioso. La prima volta che chiamo è in senso che veramente essere albanese mi sento molto orgoglioso, ma mi sento anche orgoglioso che stasera, con tantissimi albanesi, principalmente qua a Legnano, che siamo in 250 persone che stasera andiamo a Genova a contribuire per l'ultimo, diciamo, dispiacere che è successo a Genova. E questo mi fa molto orgoglioso che riesco a partecipare anche io in beneficenza per il popolo di Genova. Io voglio leggere, Pietro, questo messaggio che arriva da Alex, che è un suo connazionale, che scrive: gli 11.000 albanesi che saranno stasera a vedere la partita lo fanno anche per essere vicini ai liguri colpiti dal maltempo. Chi fa casino si deve fermare e isolare subito. Giocare con la nazionale italiana per gli albanesi è un sogno bellissimo. Sai che ho ricevuto messaggi su Twitter uguali da albanesi. Sì. Se si chiama Alex Vulai, è un grandissimo mio amico, in quanto con lui abbiamo un'associazione qua a Legnano che insieme a lui stiamo organizzando questo, diciamo, gita con i pullman per venire a vedere la partita. Speriamo di vedere veramente una bellissima partita, in quanto è successo anche in Serbia, ci ha dispiaciuto moltissimo come ci hanno giudicato, però questa volta qua invito a tutti gli albanesi di essere numerosi. Pronto? Sì, la stiamo ascoltando. Di essere numerosi e partecipanti, soprattutto per l'alluvione che è successa a Genova, che è veramente è una cosa che vorrei tantissimo, dare un aiuto anche fisicamente a pulire o fare le cose, quello che ha bisogno di a Genova, insieme a tantissimi albanesi qua a Legnano. E praticamente invitiamo di essere buoni, tranquilli e soprattutto di vedere una bellissima partita. Sì. Sì, io la ringrazio molto, Pietro. Grazie, buon divertimento, buon viaggio e buona partita, naturalmente. Giuseppe Caltanissetta, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Dica. Io volevo porre una domanda: come mai le forze dell'ordine, al momento in cui vedono un papà con un bambino piccolo, vanno a perquisire lo zainetto, tolgono il tappo dell'acqua minerale e non fanno entrare altre cose, mentre per i 130 energumeni croati che sono entrati domenica era possibile portare fumogeni, razzi e quant'altro? E secondo lei pensa che io le possa dare una risposta, oppure la risposta è già implicita nella domanda? Sì, il questore di Milano dice qualcosa di diverso. Dice ad esempio che nel cancello dove entravano i ragazzini invitati con le scuole calcio, le scuole, sì, tutto il progetto, non c'è stata alcuna perquisizione. e dice che ai croati sono stati sequestrati due bidoni di razzi, fuochi d'artificio e qualcosa fisiologicamente è scappato. Ha detto anche un'altra cosa questore di Milano, Luigi Savina. Tenga presente che c'è un accordo per esempio fra alcune tifoserie croate e alcune tifoserie italiane, per cui così come alcuni italiani hanno acquistato biglietti per ragazzi croati, ben può qualche italiano aver portato dentro dei petardi da consegnare poi ai croati. Ecco. Niente di nuovo, Ultra Connection. Era successo qualcosa di simile nel 2010 a Genova, dove i serbi erano stati perquisiti alla frontiera e poi magicamente nel tragitto avevano trovato l'arsenale lungo la strada. Sono cose inedite, non avevamo mai sentito. Ma proprio per questo, ripeto, proprio perché tra l'altro parliamo spesso e volentieri sempre delle stesse tifoserie, delle stesse federazioni che si portano dietro problemi interni, siano essi politici, economici, sociali o come nel caso della Croazia, in realtà è una questione interna, la Dinamo Zagabria ce l'hanno con un dirigente che fa parte anche della federazione. Sì. Un po' come se i laziali andassero in giro per l'Europa facendo danni durante le partite della nazionale perché ce l'hanno con Lotito. Certo. Ecco, una questione così. Allora, visto che si sa, si devono prendere le contromisure, ma non la polizia. Poi, per carità, discutiamo anche dei prefiltraggi di San Siro domenica sera. Loro vanno dove sanno che possono fare casino più o meno impunemente, dove sanno che possono organizzare le loro cose, i loro trasporti, il loro arsenale, eccetera, dove sanno che se li beccano succede relativamente poco, quindi vanno a fare queste cose dove sanno che se lo possono permettere, perché se vai in Francia, in Germania, in Inghilterra, in altri paesi è molto diverso, è molto più difficile. Quindi io rimango convinto di questo. Poi richiama anche un ascoltatore che ci racconta come era con il bimbo, è stato fatto entrare un cancello diverso, non l'hanno perquisito nessuno, dal cancello da cui è entrato lui ha visto nulla, erano tutti schiacciati come animali, gli hanno fatti entrare tutti, non hanno perquisito neanche quel cancello, accanto stavano entrando gli ultracroati che non sono stati perquisiti. Ma è quello che accade più o meno tutte le domeniche negli stadi italiani, dove hanno fatto queste barriere, ci sono i tornelli, ci sono delle regole strettissime e poi ci sono anche i problemi di ordine pubblico, cioè se tu hai 2000 persone che premono a un cancello e sono mischiati, perché a questo punto sono mischiati anche in mezzo alla gente normale, esiste anche una priorità che è quella di metterli in un luogo dove quantomeno siano divisi e quindi succede poi quello che succede. Strade, torniamo subito. Chiude così l'argomento Balotelli. A cambiarlo ci hanno provato Mancini, Mourinho, Allegri. Il passato insegna, stiamo parlando di grandissimi tecnici. Ripeto, non mi considero talmente presuntuoso anche perché io non ho tanto tempo a disposizione. Già quello del derby, il cambio in panchina dell'Inter è un problema in più per il Milan? Sicuramente sì, certo, perché ci sono le statistiche che lo dicono chiaro, normalmente un allenatore, non parlo di Mancini in generale, dà una scossa che dura 2-3-4 settimane e poi tutto ritorna alla normalità, queste sono le regole internazionali, ma sempre c'è una scossa quando si cambia allenatore, perché tutti i giocatori vogliono dimostrare il nuovo allenatore, il loro valore eccetera, insomma ci sono delle statistiche molto chiare in questo senso e quindi certamente sono difficoltà in più. Credo che alla base di tutto ci sia l'entusiasmo, ecco, noi dobbiamo ritrovare prima di tutto questo, poi sul lavoro le cose le mettiamo a posto. Purtroppo sono dei cicli, sono dei momenti in cui le cose magari non vanno benissimo, poi piano piano si ritorna a essere tra i primi, perché comunque il calcio in Italia è una cosa molto importante e credo solo che sia una questione del momento storico del paese. No, adesso insomma non ci penso, ho intrapreso un mestiere bellissimo che mi ha dato tante soddisfazioni con i ragazzi, ora ho iniziato con i grandi e mi auguro di ritagliarmi altre pagine importanti di vita. Il derby è cominciato ieri, Galliani, abbiamo sentito Mancini e Inzaghi alla Gazzetta Day, si sono incrociati, incontrati, parlati eccetera eccetera. Aldo Serena, buongiorno, ciao Aldo, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Prima di una battuta sul derby, una battuta sulla questione punte, stiamo parlando delle ultime dichiarazioni di Conte che ha detto oggi tranquillamente, Balotelli io non ho il tempo di cambiarlo, sembra una storia già finita questa. Sì, sembra di sì, è stato anche un inizio particolare, forse inaspettato, perché nessuno mai avrebbe pensato che Balotelli avrebbe dovuto essere convocato da Conte in un momento come questo, perché Conte aveva dato delle direttive di un certo tipo e sembrava Balotelli non centrarsi. Io continuo a pensare che Destro, che stasera gioca, Osvaldo e Balotelli siano i tre attaccanti più forti che abbiamo in chiave nazionale. Sì, io penso che anche Pelé e Zaza abbiano delle potenzialità, perché soprattutto Zaza, che è più giovane di Pelé, dà anche una fisicità di un certo tipo. Naturalmente deve fare un po' di esperienza, non è ancora pronto per altissimi livelli, ma io penso che su Zaza si potrebbe contare. Sì, poi se come domenica sera è costretto a giocare con una metà campo davanti e tre difensori contro, diventa difficile per tutti. Ma tu hai l'impressione, Aldo, che quelle parole lì, io più le risento, più ci penso, siano parole di chiusura di Conte? Cioè, tu ti aspetti di rivederlo ancora Balotelli a Coverciano o no? Se dovesse cambiare e virare in maniera decisa, con comportamenti diversi, con della qualità di gioco costante, e se dovesse fare qualcosa di diverso da quello che sta facendo a Liverpool, io penso che Conte potrebbe anche prenderlo in considerazione. Così no. Aldo, tutte le strade portano al Meazza, dove ovviamente dopo Italia-Croazia c'è il derby, cioè uno dei derby più strani, attesi, pallidi come classifica e probabilmente tesi degli ultimi anni. Tu credi che dopo il terremoto interista sia l'Inter la grande favorita? Ma no, io penso che qui di favorite non ce ne sono, in maniera vistosa non ce ne siano. È un derby importante perché le due squadre sono molto distanti e può essere un obiettivo di stagione, e devo dire che a Milano raramente è stato così, insomma, i dati traguardi erano sempre una o l'altra, lo stavano giocando. L'Inter ha sicuramente rivitalizzato lo spirito, non so adesso quanto il campo, sembra orientato a un centrocampo molto tecnico e anche con poca propensione difensiva, con Hernanes che dovrebbe rientrare e Kovacic e Guarin, quindi giocatori bravi, abbastanza sotto il profilo tecnico e anche molto sotto il profilo individuale, sotto il profilo collettivo un po' meno. Secondo te la scossa di Mancini può avere degli effetti benefici così a breve termine? Perché poi in fondo arriva in una squadra che, risultati alla mano, non è in crisi. Noi ripetiamo da un po', l'Inter arriva al derby col doppio dei punti fatti rispetto al Milan nelle ultime quattro giornate. Quindi è più una questione di testa. Si può cambiare in due settimane, tra l'altro senza i nazionali? Una. Ma il passato dice di sì, e con il cambio di allenatore spesso le squadre hanno avuto un vigore, un entusiasmo, un qualcosa che ha dato di più. Certo che Mancini ha di fronte derby e Roma, e sono due partite veramente difficili. Ma lui dice meglio così, dice meglio così. Dice meglio così, così li tengo svegli. Ma io penso che questa sia una frase di circostanza. Giocare due partite con squadre di medio-bassa classifica sarebbe stato meglio, secondo me, per chi inizia, per chi deve costruire, per chi deve ritrovare un'unione fra i reparti, deve dare uno spirito positivo alla squadra. Grazie Aldo. Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao Aldo Serena. Adesso poi parliamo anche di poi mercato. Facciamo anche l'elenco degli scontenti del Milan, visto che per 10 giorni abbiamo parlato della crisi Milan. Inter. L'elenco degli scontenti del Milan. Cominciamo a preparare il derby guardando a casa di tutti e due. Proviamo a fare l'elenco. No, stavo pensando a Menez, come si chiama il figlio? Menzo. Ma come si fa? Ma ditemi voi, ma come si fa a chiamare un povero bambino? Vabbè, meglio fermarci un attimo. Bad Corner, GR, poi la seconda ora, sempre Giovanni Capuano qui con me, arriverà anche Pardo, vi aspettiamo. 800 24 00 24, numero verde. Voglio leggere ancora un messaggio però, che è questo, vediamo se lo ritrovo. Riguardava il discorso sugli albanesi, che orgogliosi di fare un gesto di solidarietà nei confronti dell'Italia. C'è chi scrive: la solidarietà si fa personalmente e basta senza far pagare gli spettatori. Non sono d'accordo su questo, e il ragionamento dell'ascoltatore albanese di prima a me è piaciuto moltissimo. sconvocati. Quante sia? No, stanno, stanno. No, stanno. Non è chiarissimo, però ricostruiamo, giusto l'effetto sonoro, cry baby cry, l'ha detto, non serve il condizionale, la dolce Mirka. Moglie di Mirka, la dolce moglie di Federer, a Stan Wawrinka durante il combattutissimo match tra i due ai Masters di Londra, e adesso la Svezia, cioè la Svezia, la Svizzera va a giocarsi la finale di Coppa Davis in Francia con uno spogliatoio, diciamo, non così unito. Wawrinka dice: hai sentita il giudice? Hai sentito cosa ha detto? Anche adesso mi rompe le palle questa. Fatevi due risate, li vedete tutti seri. Stefano Melocca da Sky, ciao Stefano. No, ma è sempre colpa delle femmine, capito? Cioè, gira, alla fine, cioè, quello è, ricadiamo sempre sullo stesso peccato. Non farmi rimandare la dichiarazione di Mughini, eh. Quando dice: ma se mia moglie scrivesse un tweet, la butto dal quinto piano. Sono tutte cazzate. Allora passi la signora Pazzini, la signora Cassano, la signora, sì, Antonini. Passino tutte, sì. Questa è grossa, però, perché un conto è fare il tifo a favore del marito, questo è consentito. Però la scena di lei, cioè di Mirka Federer, che durante la semifinale del Masters, dà fastidio reale, perché gli ha detto praticamente, traducendo: non hai le palle per vincere sta partita, capito? Ed era recidiva, cioè lui se l'è presa molto, tant'è che l'arbitro gli ha detto stan, si è sentito nel pezzettino che avete, sì, fatto sentire, lui se l'è presa molto, perché la stessa storia più o meno analoga era successa anche a Wimbledon, dove i due svizzerotti si erano incontrati nei quarti di finale, per cui, capito, due indizi fanno una prova, perché lei, Mirka, non solo passa tutta la partita a fare oproge, che già te si mette nelle orecchie, così, oproge vuol dire a lei Roger, ma in più, capito, lo ha insultato, e lo ha insultato anche in francese, perché gli ha detto: tu non hai le palle, in, sì, francese, che è la lingua madre quindi Roger che fa? Sgrida Mirka, no? No. Quindi Roger non sgrida Mirka, perché tutti noi ovviamente ce ne guardiamo bene dallo sgridare le nostre mogli, però si sono scazzati tra di loro per un buon quarto d'ora negli spogliatoi, insomma, poi adesso, sai, tra uomini che poi condividono un destino come quello di dover vincere per la prima volta la Coppa Davis, un accordo alla fine lo trovano e giocheranno schiena permettendo di Federer. Però insomma è successa una bella, voglio dire, Gabriele Parpiglia, Enrico Papi, come si chiama il direttore di chi? Signorini, Alfonso Signorini qui avrebbero materiale per un semestre, capito? Sì, avrebbero materiale, ma mi sa che va avanti, Poi te la vedi, cioè adesso andrà alla finale di Coppa Davis, poi che fa? Io infatti, guarda, proprio ieri ho fatto un servizio per Sky Sport 24 e lo concludevo dicendo: Mirka, ma i tifosi della Svizzera si aspettano e dicono: Roger, ma non è che questa te la devi portare appresso sempre, se la lasci a casa per un weekend non succede niente, perché secondo me portarsela appresso anche lì non è che sia proprio, però lo scopriremo solo vivendo. Sì, sì, non è quotata Mirka a casa nel weekend della finale di Coppa Davis, no. Sì, che c'è con i quattro gemellini, con le due coppie di gemelli, ne avrebbe da fare. Ma sai, i soldi per pagare a babysitter un paio di giorni non sono un problema. In quel caso lì. Senti, per chiudere, Stefano, è chiaro che questo fattore potrebbe incidere su una finale di Coppa Davis che non poteva non essere orientata verso la Svizzera, con Sua Maestà Roger Federer schiena permettendo e Rosenberg come super giocatore. Oddio. Insomma, già con tutti e due al 100% si gioca, perché comunque vai in Francia, vai nel campo loro, ci sono 30.000 persone pronte a fare il tifo per la Francia, e la Francia ha Tsonga, Gasquet, si portano anche Monfils, insomma, voglio dire, si deve giocare, te la devi giocare fino alla fine, tutta gente che comunque, sia Federer che Wawrinka, lo ha battuto, in più schiena non al 100%, in più pure la sceneggiata napoletana in salsa svizzera. Capito? Cioè, ce n'è da guardare, ce n'è da essere curiosi. Sì, ce n'è parecchia. Grazie Stefano. A voi, grazie. Ciao Stefano Meroccaro. Mica male. No, mica male. Tra l'altro, Mirka A proposito di mogli, poi c'è anche chi con un po' di malizia dice che ad esempio Lady Pazzini non è che proprio fosse impazzita di suo, è che aveva voglia di mandare dei messaggi che altri non mandavano e quindi è tornata voglia, ha usato di sentire, i social. È tornata voglia di sentire cioè, Bughini. Non ce l'abbiamo, mi spiace. Oh, dicevo che mi è tornata la voglia di sentire Mughini. Non ce l'abbiamo. L'energia del quinto piano. Ma sì, Mughini estremizza la punta dal quinto piano e vuole i reparti speciali allo stadio a presidiare militarmente tutti. Però, Io avessi una moglie, lo dico con molto rispetto per Antonini, ma con molta amicizia per Antonini, e mia moglie osasse mettere becco a favore mio su un argomento qualsiasi, io la butto dal quinto piano. Rispetto ed amicizia. Grande amicizia e grande rispetto. Comunque però, la signora Mirka, quella che faceva fare le notti insonni a Roger per cullare le prime due gemelle, quindi attenzione, sì, perché deve essere carattere una particolare. Deve essere una che non te le manda a dire, però ragazzi, Melocca ha ragione, cioè anche sappiamo come il tennis non sia un ambiente così esacerbato normalmente come il calcio, però andare lì a bordo campo a strillare all'avversario di tuo marito in quella maniera, non hai le palle per vincere, è tanta roba. Ciao Pierluigi Pardo, come va? Stiamo per organizzare un appuntamento con Lady Federer. Sì, ho sentito, ti ascolto. Io quando non faccio Radio 24 ascolto. Questa è una che te le dà, cioè, ti mette le mani addosso. La inviti prima o poi? Sì, la signora Federer? La signora Mirka, sì. La signora Mirka Federer, attività, che io ce la vedrei bene. Con Mughini, ma te la vedi? Un po' intimidito, mi sembra questa... qual è il parallelismo col maschio alfa? La femmina gamma, non lo so. Mi sembra abbastanza tosta, Sì, non mi pare male. Senti, cosa dirà Italia-Albania di questa sera? Tanto io raccolgo diversi messaggi di ascoltatori albanesi che dicono tutti la stessa cosa ed è un concetto molto bello. Riguardo la partita di stasera, volevo assicurarvi, leggo un messaggio, che la tifoseria albanese sarà un esempio di civiltà e divertimento. Vedrete i fatti e poi mi darete ragione, orgoglioso di essere albanese, faremo di tutto per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione. Quindi c'è questo grande sentimento albanese di voler un senso di orgoglio, di voler fare qualcosa per Genova, per i genovesi, per l'Italia in questo senso. Io non è che voglio fare il sociologo o lo storico dell'Albania, perché ne ho sicuramente né le qualità né la cultura di poterlo fare, però quello che mi sembra di ricordare negli ultimi 20 anni è che l'Albania abbia vissuto con le televisioni italiane commerciali e pubbliche aperte, l'Italia abbia rappresentato per loro spesso quantomeno un modello con il quale confrontarsi, magari non da copiare in tutto, ma insomma comunque un punto di riferimento molto importante, e credo anche dai segnali che mi arrivano che non ci sarà nessuna ostilità, me lo auguro. Noi tra l'altro ieri sera abbiamo mostrato un documento che ci ha dato la Federazione Albanese a proposito della linea difensiva dei ragazzi di De Biasi sul 0-3 con la Serbia, e sono immagini ovviamente che abbiamo mostrato e che sono immagini molto forti, insomma, che raccontano tutta una serie di provocazioni che sono avvenute prima dell'arrivo di questo famoso drone, e senza parteggiare per gli uni e per gli altri, perché non abbiamo nessun interesse per farlo, però insomma credo che siano immagini che raccontano evidentemente un pezzo della verità di questa vicenda, che è molto più controversa di come l'UEFA ha voluto in qualche modo sintetizzare con quel 3-0, quei tre punti tolti alla Serbia. Quindi, e anche ieri sera mi sono arrivati tanti messaggi da parte di tifosi albanesi che hanno visto, immagino anche in Albania, queste immagini, ma non è, ripeto, tifare per l'Albania, è semplicemente rappresentare un pezzo di verità. E abbiamo ricordato ovviamente che il video è un video di parte, nel senso comunque è il video che fa parte del kit difensivo della Federazione Albanese. No, stasera è interessante, io sono contento per De Biasi, che secondo me si merita questa sfida. È un amico, una persona che secondo me fa calcio da tanti anni, lo fa molto bene. Ero con lui nel giorno in cui ha ricevuto la prima chiamata dalla Federazione Albanese, so con quanto entusiasmo ha preso questo tipo di incarico e insomma, quindi si guarda, io personalmente guardo a loro con una certa simpatia. Sì, ma al di là della simpatia cominciano ad essere anche una signora squadra, secondo me, nonostante molti abbiano detto di no alla nazionale albanese, molti giocatori, mi viene in mente Berami, Shaqiri abbiano scelto un altro di rappresentare un altro paese, cominciano ad essere una nazionale, mica male, No, una nazionale interessante sicuramente, e credo anche un paese in crescita, credo un paese faticosamente, certamente, ma alla fine inesorabilmente in crescita, e questo non può evidentemente che farci piacere. No, devo dire la verità che insomma il 3-0 a tavolino con la Serbia non pesa soltanto da un punto di vista, diciamo, storico, ideologico, politico, ma pesa dal punto di vista strettamente tecnico, perché l'Albania può qualificarsi assolutamente per i prossimi europei, e sarebbe una qualificazione storica, complice evidentemente anche la formula 24 squadre. Ci sono tutte le possibilità per poterlo fare, c'è stata la storica vittoria in Portogallo. Insomma, io credo che sia una squadra molto, molto insidiosa, non vale la Croazia dell'altro giorno, però sappiamo che gli italiani spesso nelle amichevoli sono molto distratti, siamo molto distratti. Per l'Albania questa sarà, secondo me, una partita storica, perché è la prima volta che avviene, perché ripeto, l'Italia... Ma certo, questo è un ulteriore fattore, per loro, no? Per loro sarà, secondo me, un derby, è una partita della vita, e per noi magari no, e quindi questo dal punto di vista del risultato un po' di paura me la mette. Sì, oggi Conte ha bastonato non solo Balotelli. Leggo, ha detto anche: penso che bisogna tornare ad essere umili, ad apprezzare lavoro e fatica, senza i quali non si diventa campioni. Solo con queste premesse si può lavorare, e in generale dico che dai giovani mi aspettavo più partecipazione. Non è stato contentissimo di questa settimana, a meno che questo non sia un messaggio lanciato proprio per evitare che, come al solito, l'amichevole venga snobbata con o senza Balotelli, tutti gli altri temi. Qualcosa c'è, secondo me, perché non credo che insomma Conte si metta a dire una cosa del genere gratuita solo per preventivamente, no? Io penso che evidentemente quella battaglia prima di tutto culturale sulla mentalità dei calciatori italiani in nazionale, soprattutto in occasione delle amichevoli, è una battaglia culturale che Conte sta cercando di fare, che in questi giorni non si è completamente realizzata. Ma Balotelli bocciato totalmente, secondo te, dopo quelle parole che ha detto oggi? Beh, il sospetto c'è, il sospetto c'è, anche perché non dimentichiamoci quello che dicevamo una settimana fa all'indomani della convocazione, quello che aveva detto lui all'indomani della convocazione. Allora io torno a ripetere, a me sembra un po' il come lavarsi le mani, no? Da parte di Conte, lo chiami dopo due giorni e dici: no, non mi piace, mi tolgo questo pensiero perché so che mi avreste rotto le scatole fino allo sfinimento. Sembra delitto perfetto, no? Su questo non ci sono grandi dubbi, però insomma io ribadisco il concetto, penso che l'ho espresso tante volte, io non penso che Conte sia come quelle mogli che per fare il dispetto al marito, ecco, io penso che Conte, se Balotelli sarà realmente in grado di dare qualità, continuità, spirito di squadra, sarebbe un pazzo a non volerlo. Evidentemente se arriviamo a pensare una cosa del genere, cioè che questo possa essere stato il delitto perfetto, che lui volesse togliersi il dubbio, forse sarei già tolto il dubbio con questi pochi giorni, saremo di fronte all'ennesima occasione persa della carriera di Balotelli. Cioè, io credo che, premesso che poi ognuno di noi, indipendentemente dal lavoro che facciamo, dalla posizione che abbiamo, siamo chiamati ogni giorno a dimostrare qualcosa, no? Gli esami non finiscono mai, sì. Però c'è comunque una sproporzione in questo momento fra l'immagine e la storia di Conte è quella di Balotelli, quindi in questo momento Conte, non ti dico che ha ragione per definizione in un eventuale querel con Balotelli, ma insomma poco si manca, no? E quindi Balotelli ha la vita dal punto di vista della nazionale. Sì, che poi si tratterebbe anche di capire la ragione di questo, perché chiami uno, fai due allenamenti, dici non mi piace. Sì, se è una ragione tattica o comportamentale. Quello che è successo non lo possiamo sapere, non posso credere che sia Mario Corri questo che invece fa due passi camminando, cioè non posso credere sia una roba così. Quindi le ragioni magari le sapremo, magari no. Torno a ripetere, dopo due allenamenti, rimandarlo a casa, pubagia o non pubagia, e poi uscire con queste dichiarazioni, hai ragione tu. Adesso il punto è anche un altro: il punto è che c'è un referto medico, il dottor Castellacci. Sì. Io non penso che Castellacci sia inventato il referto, lo conosco troppo bene. No, ma non lo penso neanche io. Non lo sto dicendo che è una scusa. Sulle questioni mediche c'è anche un discorso proprio di responsabilità professionale. No, e quindi non credo che ci si possa inventare un infortunio. Beh, a maggior ragione valuti un giocatore che è mezzo rotto, che non sta bene sulla base dell'intensità di due allenamenti? No, fra l'altro, sinceramente, quella di oggi mi sembrava. Però quando era emerso con una certa chiarezza che Immobile e Zaza erano comunque avanti, che Balotelli era destinato all'eventuale panchina per il match importantissimo con la Croazia, a quel punto il pensiero che credo in tanti avevamo fatto era benissimo, quindi Balotelli è stato portato per provarlo contro la Croazia, che sembrava questa la soluzione più logica, sì, certo. Qualora non fosse entrato contro a San Siro, quindi insomma qualcosa sicuramente non ha funzionato. Può essere stato semplicemente un problema muscolare, insomma tante volte la realtà è più semplice di come lo vogliamo immaginare con la dietrologia, però insomma trattandosi di Balotelli, che è uno dal carattere non esattamente malleabile, e alla luce anche delle dichiarazioni di Conte il sospetto c'è, e c'è anche il sospetto che il viaggio di Balotelli almeno per il momento possa essere chiuso qui. Poi insomma, sì. La strada è lunga, manca un anno e mezzo agli europei. Sì, poi il tema è capire se Conte se lo può permettere, se è giusto che se lo permetta. Balotelli, con tutti i limiti che ha, 24 anni, probabilmente chiudere qui il suo viaggio azzurro credo sia troppo per tutti. Cioè io credo che sia anche legittimo aspettarsi da Conte che un pezzettino di quello sforzo, senza l'esagerazione di Prandelli che ha messo Balotelli al centro del progetto, quel pezzettino lo deve condividere insieme a tutti gli altri. Ci deve essere un valore aggiunto. Innanzitutto non c'è niente di definitivo, soprattutto per un ragazzo di 4 anni. Se anche fosse definitiva la bocciatura di Conte, magari tra 4 anni lo troveremo. La carriera di Capitano da questo punto di vista è paradigmatica, ha saltato spesso i mondiali, tranne l'ultimo che ha fatto, era protagonista degli europei, è stato un continuo stop and go a seconda di chi era il commissario tecnico, anche di com'era il suo rendimento in quel momento. Ma Balotelli, per i colpi che ha, secondo me è il classico giocatore che se non si perde del tutto, come è successo dal punto di vista caratteriale ad esempio ad Adriano, una storia tristissima anche dal punto di vista umano in Brasile, ma se non si perde da quel punto di vista sarà sempre un giocatore capace, secondo me, di resuscitare. Il problema di Balotelli è che non è che ci deve dimostrare di avere dei colpi, i colpi di genio ce l'ha avuti anche in nazionale. L'unico gol nostro al mondiale brasiliano, meglio, l'unica partita che abbiamo vinto noi al mondiale brasiliano l'abbiamo vinta anche grazie a lui, no? Con il gol decisivo del 2-1, quindi non è per forza stato tutto negativo. Il problema è che da uno così ti aspetti una continuità di rendimento e un comportamento che lo sta amalgamabile in un contesto di squadra. La continuità, Balotelli, è che lui, con le caratteristiche che ha, con la forza che ha, deve diventare un giocatore protagonista per 30-35 partite successive. Questa cosa qui, questo non è neanche un problema di Conte, questo è un problema di Brandon Rodgers. Sicuramente. Allora, mentre io segnalo un tweet di Alessandro Mina, perché oggi il vero tema non è né Balotelli né la nazionale che gioca contro l'Albania, ma è il figlio di Menez, che poveretto è stato chiamato Menzo senza aver fatto nulla di male appena nato, e gli hanno rifilato questo nome probabilmente. Pronto, per fare... Ciao, sono Enzo. No, Enzo. Enzo è invece figlio di Mexès, quindi Enzo Mexès, Menzo Menez, è già fatta la coppia per la Francia del futuro. Ma io segnalo un tweet di Alessandro Milan che scrive: io volevo chiamare mio figlio Nello, Milanello, ma incredibilmente mia moglie Francesca ha detto no. Anche alla figlia Forza ha detto no. Ho un rapporto splendido con gli arbitri, in Lega 2, pensa se non era così. Vivo con Loguzzo da 3 settimane perché siamo omosessuali tutti e due, non sto scherzando. No, ma va, che figa. Stiamo qua un po' che sono un po' depresso, infatti. Fighe e alcol, ricordate. Per dimenticare? Adesso ne vorrebbe a litri. Vabbè, che cazzo volete? Chi fa le domande qua? Chi è il più furbo? Però voi in questo momento pensate che io sia contento. Ponte Milvio vicino, che mi vado a lanciare giù. Cos'è quello dei lucchetti, no? Magari prima da un cazzotto a boccia e la moccia e poi... Irresistibile Pozzecco. Domenica, dopo la conferenza stampa seguente alla sconfitta di Varese a Roma, vinte le prime due, poi perse 4, post depresso, ha bisogno di aiuti e di aiuto. Ma io penso che per conferenza stampa di Pozzecco bisognerebbe a questo punto far pagare il biglietto, magari fa entrare gratis alla partita poi fai pagare un biglietto per la conferenza stampa di Pozzetto. Sì, non dagli l'idea che vendono i diritti dopo, eh. Ma i diritti, cioè, se vendono i diritti, cioè, è un fiorire di Pozzetto sui siti web, cioè è il personaggio più gettonato del momento, non tanto come allenatore ma come comunicatore. A proposito di comunicazione, qualche problema a Bari, dove sappiamo sono giorni difficili, è esonerato l'allenatore Mangia, hanno preso Nicola, contestazione, gli animi non sono sereni, ma il difensore Sciaudone, Daniele Sciaudone, ha avuto un leggero diverbio con un tifoso all'uscita dell'allenamento. Sì, non stava l'ha presa benissimo. No, stava uscendo in macchina, non so, macchina nera dal centro allenamento, dopo allenamento a porte chiuse, tifosi intorno, deve essere scappata una parolina di troppo. Oh, che serve! Ma che cazzo serve? Oh, degli schiaffi a cosa? Che serve? Che serve? Che cazzo serve? Che cazzo serve? Mi raccomando, pubblicate le foto, mi raccomando. Venite a fare il fenomeno, venite anche a fare. Ma se non adesso vado a farci bene per il culo, da te vengo a fare bene per il culo. Mi faccio un culo così tutta la settimana, sono adesso contento di perdere, testa di cazzo. Brutto coglione, venite a chiedermi che coglione. Io ho fatto 3 chilometri, coglione. Che ti spacco la testa, testa di cazzo. È andato avanti molto. È ancora lì. Poi lo raccontiamo. Se volete vedere il video, anche questo cliccatissimo. Fa per andare via, poi torna indietro. Scende dalla macchina. Ha fatto la finta e riprova a saltare addosso al tifoso. Il video lo pubblicano a puntate. Cioè il primo round, il secondo round, il terzo round. Pierluigi Pardo. Sì, ma guarda, allora... Che devo dire, per la prima volta chiamiamo su un'altra utenza, che dovrebbe essere quella di Mirka Federer, giusto? Sì, com'è, meglio? Sì, meglio Piantanini da nostro... Siccome è di Mirka, diciamo che è meglio e basta. Sventola la mano, come dire... Vediamo fra 3-4 minuti. Sì, è un modello meno evoluto del telefono suddetto, ma forse era ancora un po' meno telefono, un po' più orbello. Un po' metallica comunque... la voce, comunque almeno non ci sono particolari buchi. Adesso vediamo, mentre... Vabbè, adesso non fa il tecnico della Telecom, voglio dire. Tecnico del suono, Sì, no, ci sono i bassi un po', no, il bar bisogna schiarire un po', ecco, no. No, sul nome di Sciaudone, in realtà Sciaudone dice una cosa, la dice male, la dice sicuramente reagendo, e bisogna sempre considerare, insomma, che i calciatori sono considerati e sono privilegiati, per cui, insomma, il farsi il famoso mazzo tutta la settimana rispetto, insomma, a gente che magari il lavoro non ce l'ha oppure ce l'ha ed è un lavoro estremamente umile, fa un po' ridere. Però ecco, di fondo ha ragione, cioè c'è sempre questa strana idea, secondo me, che fa parte della cultura della vittoria a tutti i costi, che il calciatore o l'allenatore quando perde è perché non si è impegnato, e questa cosa qui è una cultura che va combattuta. Non è che si vince, dice uno una partita giochiamo io contro di te, uno vince, l'altro perde, e tutti e due vogliamo vincere, non è che uno ha voluto vincere e l'altro ha voluto perdere, è un concetto basico, elementare, anche molto banale, ma certo, è difficile da farlo entrare nella testa, insomma, ma poi anche questo vizio di andare a insultare le persone, io sinceramente lo capisco poco, ma lo diciamo noi, non è per tirare un po' di acqua da questa parte, però anche noi riceviamo diverse, tu Pierluigi lo sai benissimo, lo sa Giovanni Capuano, riceviamo diversi insulti di SM, ma è anche, voglio dire, colorato, no? Un aspetto colorato e colorito del nostro mestiere, sì, però anche questo vezzo da insultare chi non conosce è un po' difficile, cioè è un po'... difficile da capire, no? La mia esperienza anche sui social è che poi magari uno ti insulta, poi tu gli spieghi una cosa e diventa tuo miglior amico. No, va bene. Aggiunge ai preferiti il tuo tweet, no? In cui, sì, che è un classico della tradizione, no? Lo stellino. È un modo probabilmente per esprimere di getto un pensiero. Certo. Ma va bene così. Va bene, non sono di quelli che si offende particolarmente. E i calciatori non devono offendersi, sono dei privilegiati, è chiaro che fanno questo lavoro. Però dal punto di vista strettamente tecnico, logico, quello che dice Sciaudone è vero. Io non ho mai conosciuto, mai, lo dico sinceramente, un calciatore che volesse perdere, che pensasse in cuor suo: speriamo che domenica perdiamo, perché perché non me ne frega niente. No, ma... io questi qui non l'ho mai conosciuti. Io ho conosciuto nell'esperienza un anticalciatore che speriamo che facciamo risultare domenica, fosse anche soltanto per vivere più tranquilli, per essere più sereni, però questa cosa qui i calciatori ce l'hanno, quindi il Bari è andato male, sta andando male, non certo perché i calciatori vogliono farlo andare male. Poi ci sono stagioni in cui le cose vengono meglio, squadre costruite meglio, squadre che sicuramente fanno meno bene di come è immaginabile. È chiaro che il Bari fino a questo momento è una delusione, non ci sono dubbi. Il campo, dopo quello che ha fatto l'anno scorso, certamente. Certo. E quindi io capisco perfettamente l'atteggiamento dei tifosi, però questa cosa qui, che ripeto, è banale, perché... No, ma io contesto comunque anche questa voglia a tutti i costi di essere protagonisti di un gioco in cui dovresti essere spettatore. Poi lo so che è un po' forzato, ma vai lì, paghi, non ti va di quello spettacolo, non ci vai più, oppure manifesti il tuo dissenso. Io ho un'idea un po' più interattiva, sì, tu hai ragione, perché è l'idea ovviamente laica anglosassone, no? dello spettatore, del consumatore, che compra un servizio nel momento nel quale io non sono soddisfatto dell'impegno, dei risultati della mia squadra, decido che non compro il biglietto. E in qualche modo è così, perché insomma abbiamo parlato lungamente di San Siro in queste settimane, raccontando i 15.000, i 20.000, i 25.000, sono un segno di disaffezione dovuto anche ai risultati che non sono all'altezza. Quindi questa è una cosa che di fatto già succede. Poi ci sono i tifosi che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti. In qualche caso è esibizionismo, in qualche caso è addirittura malaffare, o comunque è il tentativo di lucrare, no? Sappiamo bene che ci sono tutta una serie di situazioni che sono borderline. Da questo punto di vista, molto spesso è semplicemente la passione del tifoso che ha voglia di andare a salutare i giocatori, certo, della buona e della cattiva sorte. Io non me la sento di... se togliamo i tifosi al calcio, non rimane quasi nulla, rimane un gioco bellino e nulla più. Quindi, per carità, va benissimo, però entro certi limiti, soprattutto partendo dal presupposto che nessuno vuole perdere apposta, salvo qualcuno che si vendeva le partite, come sottolinea qualche ascoltatore via SMS. Vabbè, vogliamo parlare lì siamo alla malavita, patologica, che succede una volta ogni X anni e che poi sono altri discorsi. Io ringrazio Alberto, Simone e Luigi che sono in linea da un pezzo, volevo farli parlare. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Scusi per l'attesa. No, ci mancherebbe. È stato come sentire essere amico di padre, sentirlo al telefono direttamente. No, io stavo in realtà per polemizzare un po' su Nazionale Stasera, nel senso che non capivo bene poi se è stato abbastanza disatteso dalle telefonate e poi sono giunte prima. Nel senso che non capivo come mai, fatto salvo che comunque l'incasso per Gianlu Bognati sta benissimo, anzi farei proprio tutta la giornata di Serie A di domenica prossima a devolvere a Liguria, a Toscana, in Germania. Ma non capivo perché organizzarlo a Genova, laddove il genovese in teoria dovrebbe andare a vedere una partita, pagare lui un biglietto per farsi autobeneficenza. Questo non lo capivo tanto. Poi ci sono, abbiamo detto, anche ad esempio 11.000 tifosi albanesi che invece non sono di Genova, vanno lì. Poi ci sono i diritti TV, poi c'è la nazionale che si autotassa, cioè ci sono tante cose. Poi si poteva anche giocare altrove. Un indotto economico, perché comunque la nazionale che si muove sposta giornalisti, sposta tifosi, insomma un ritorno per la città in assoluto c'è, in generale, non so quantificarlo in centinaia di migliaia di euro, non lo so quant'è, però sicuramente un ritorno per la città di immagine c'è. Anche qualcuno che stasera, vedendo la partita che si gioca lì, verrà in qualche modo colpito e vorrà inviare degli aiuti dall'Italia o dall'estero. Quindi c'è anche la raccolta, credo, con gli SMS che verrà. Ci sono diverse cose che non sono semplicemente i biglietti che i genovesi dovranno pagare per vedere la nazionale, cioè c'è molto altro. Certo, no, il vero paradosso, secondo me il vero paradosso è stato che, insomma, purtroppo anche la giornata di sabato sappiamo che è stata, cioè che abbiamo rischiato veramente di non giocare, nemmeno questa volta, perché di nuovo ci sono quei problemi, anche se magari in misura minore. Quindi questo è stato, secondo me, più che altro il problema. È chiaro che in tutte le cose che vengono fatte c'è sempre un rovescio della medaglia, c'è sempre il rischio poi di una strumentalizzazione o di qualcuno che si fa pubblicità, però alla fine, secondo me, bisogna vedere se è più l'effetto positivo o l'effetto negativo. Per me qui l'effetto è sicuramente positivo. Tanta gente stasera manderà gli SMS, c'è comunque l'incasso, c'è comunque la sensibilizzazione, anche chi in qualche modo poteva essersi distratto fino adesso della situazione assurda e terribile che ha vissuto Genova, stasera verrà sensibilizzato. Certo, sono diretti TV, c'è molto altro ancora. Allora, noi abbiamo il traffico, subito dopo Luigi. campione ha dimostrato con i fatti e non con le parole, però c'è sempre stato un rapporto, di lui lo sa perfettamente, tra chi rappresentava i colori della Lazio e lui che rappresentava i colori della Roma, un rapporto di grande rispetto, di stima reciproca. Domenica c'è Lazio-Juventus, allora per dirla romana ti tocca di far Lazio domenica. Bella notte domenica. Uguale, chiudo l'occhio. Quello che succede, succede. Lotito e Totti, Totti e Lotito. Intanto abbiamo sentito l'informazione sul traffico, che documentano il fatto come dalle parti di Genova è un bel casino. Ulteriore frana Bolzaneto, sì. Ulteriore testimonianza. Luigi da Napoli, buongiorno. Dato, buongiorno. Purtroppo avete già detto voi prima in merito a quello che era l'opportunità di scelta sullo stadio di Genova, perché magari l'opportunità di giocare questa partita credo che sia ancora prematuro, secondo me, al di là poi degli sponsor, degli sms che ci saranno, però magari poteva essere dedicata una giornata di sport realmente a Genova in una data successiva, visto lo stato d'animo della regione Liguria, e quindi non lo so, cioè aderiranno sicuramente, sarà una bella serata di sport, indubbiamente, però si è mancati un poco di creatività nella fede del calcio, a mio modesto parere. Questo è tutto. Anche questa è una teoria. Sì, detto che un mese fa nessuno poteva prevedere che oggi saremmo stati alle prese ancora con una settimana di piogge e con tutto questo caos. Quindi probabilmente non ci fosse stato questo, non staremmo qui a fare questi discorsi. Però è anche vero che un mese fa, quando la Federcalcio ha deciso di spostare da Parma a Genova la partita contro l'Albania, non avevano in mano le previsioni. Era impossibile pensare, ripeto, salviamo il bel gesto per una volta. Ma sì, ma veramente. Cerchiamo di essere poco dietrologici, cioè io amo la dietrologia, però per una volta io no, nel senso che questo, cioè, dai, questa cosa qui è una cosa bella, una cosa semplice che il mondo del calcio fa. È un mondo nel quale sappiamo che spesso i calciatori vengono considerati dei privilegiati che vivono dentro una campana di vetro e non si accorgono dei problemi della gente. In qualche caso è anche vero, perché è una condizione talmente milionaria che ti porta magari a fregartene anche in buona fede di quello che ti succede attorno. Questa volta qui comunque la federazione, tanto vituperata, il presidente che fa le gaffe, fa una cosa che è una cosa bella, semplicemente bella, di solidarietà, normale. Sì, una cosa normale, ci hanno provato, insomma, ci proviamo. Mi pare che il calcio il suo lo stia facendo. Adesso speriamo che, visto che questa cosa è già successa 3 anni fa e che i torrenti sono sempre quelli, questi benedetti fondi europei vengano spesi bene, senza che nessuno se li mangi, per risolvere i problemi, perché questa è l'unica cosa che possiamo fare. Invece di polemizzare con Tavecchio, non forse sarebbe il caso di polemizzare con chi gestisce la situazione da quelle parti, no? Maurizio, provincia di Torino, che dice? Buongiorno, innanzitutto saluto a Pardo, a Genta, a tutti presenti. Grazie. Niente, io volevo intervenire di nuovo sugli incidenti della frontiera di Italia-Albania. Croazia. Mi sembra che ci sia un rischio, che ci sia un rischio di demonizzare un pochettino queste frange, nel senso, io sono un appassionato di pallacanestro e già l'anno scorso, quando vedevo il Partizan, quest'anno la Stella Rossa in Eurobasket, 20.000 persone, non cade un pezzo di carta per terra. Come mai tutto ciò succede solo nel calcio? Non è che è un problema forse dei nostri stadi italiani che permettono certe, diciamo, forzature, tra virgolette? Quello che è successo domenica sera è un problema tutto interno a un club, che è la Dinamo Zagabria, e ha il legame tra questo dirigente, almeno da quello che è stato ricostruito, tra questo dirigente e questa tifoseria, che è una delle tifoserie più calde. Ed è un problema che la Croazia si porta in giro per l'Europa, perché, ripeto, i dati sono sulla Gazzetta dello Sport di oggi, 4 sanzioni già arrivate dal 2011 a oggi, più 2 sentenze che saranno emesse a breve, più quella ovviamente che sarà legata alla partita con l'Italia. Quindi secondo me non è nemmeno un problema del calcio, no. In questo caso stiamo parlando di un problema specifico. Un problema specifico che è il pretesto. E non è neanche secondo me un problema così italiano. Noi, come dicevamo ieri, ci portiamo dietro questa immagine, questa patente, di questa etichetta di di nazione nella quale è più facile fare da ferugli rispetto ad esempio all'Inghilterra o certi altri paesi, però insomma, abbiamo degli stadi anche che consentono questo tipo di cose, consentono, sì, che consentono, quindi sicuramente noi dobbiamo prenderci il nostro pezzo di responsabilità e lavorare per migliorare la nostra immagine e per migliorare la sicurezza dei nostri stadi, e quindi la nostra piccola componente di colpa, di omesso controllo o di mancata prevenzione ce l'abbiamo. Detto questo, qui siamo di fronte a una cosa che non riguarda l'Italia, che riguarda appunto un altro paese, probabilmente una dinamica interna in un club, e che ci fa capire che poi purtroppo questi problemi di violenza negli stadi valgono ovunque, insomma Italia-Serbia ce la ricordiamo, io ho fatto un paio di anni fa la telecronaca di Partizan-Inter che fu, non successe niente di grave, ma fu una, si giocò in un clima irreale dal punto di vista degli scontri, e quello che è successo fra Serbia e Albania, l'abbiamo commentato anche ieri, è qualcosa di incredibile, il derby di un paio di anni fa sospeso fra Serbia e Partizan, non so, sto parlando, scusami, fra Partizan e Stella Rossa, so che sto parlando evidentemente di Serbia, e sono molto diverse Serbia e Croazia, però comunque questo tipo di tifoserie sono le tifoserie dell'est europeo negli ultimi anni, insomma, dati alla mano, sono quelle più pericolose. Sono situazioni di rischio, ed è inutile nasconderlo, ne parlavamo anche con Paolo Condò, che ci raccontava, sono andato a fare l'inviato a un Serbia-Croazia, non è successo niente di particolare, ma si respirava in giro per le strade una tensione che non raccomando a nessuno, e questi sono fatti, è inutile far finta di che non esistano. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao Pier. Ciao. Facciamo in tempo solo a salutare Simone da Massa Carrara. Buongiorno Simone. Buongiorno, ciao a tutti e complimenti. Una domanda sola, sì. Ma secondo voi non è che le società di Serie A, quando vengono convocati i propri giocatori nazionali, vi dicono di andare con più calma, cioè di non essere così cattivi durante le partite? Io credo di no, che comunque è un discorso che non riguarda solo i nazionali italiani. Segnalo soltanto che Modric è fuori 3 mesi. E anche Lam. Lam fuori 3 mesi, ha spaccato una caviglia. Tributo pagato da Real Madrid e Bayern Monaco alle nazionali. Sì, questa sera giocano Giovinco, Bonucci e Destro, almeno in partenza. Giocano tutti sabato pomeriggio. Così se vogliamo fare dietrologi, ti lascio materiale per domani. Pronto Amedeo? Vale. Ciao, sono Enzo. No, ciao. Enzo. Grazie Giovanni Capuano, Franco Bertanino, nostro autore, Roberto Scaltetti in regia, Daniele Buonamici in redazione. Sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao. Me ne posso andare? No, la faccio più, già caldo. Sentite, io non voglio guai. Uno Yankee del cazzo. Perché uno Yankee sta con i GS? Sì. Io non so niente dei GSI, sono solo un turista. Oh beh, in questo caso, che ne dici se ti lasciamo con un souvenir appropriato? Lo conosci il ghigno Chelsea? Eh? Dai, ti prego. Accettate l'American Express. Scommetto che The Major si è divertito con i ghigni Chelsea, ai vecchi tempi, eh? Quando i GSI non erano così stronzi da lasciare uno dei loro tutto solo. Non lasciamo i nostri da soli, merda!